perché con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. C'è tutta la rosa al completo, quindi sono tutti convocati. 800240024 e siete convocati anche voi da Zdenek Zeman. 225 gol, cosa volete che siano? Abbiamo sentito adesso nel GR che ci sono 259 candidati per il premio Nobel per la pace, quell'enorme business che è il premio Nobel per la pace. Cosa volete che siano i 225 gol di Totti? Tra gol e gaffe, uno dei fine settimana più divertenti della stagione, con la Juve che blinda lo scudetto, il Milan che sente il profumo del Napoli e l'Inter che si conferma la squadra più bizzarra del pianeta. Ma noi oggi partiamo dall'Oscar del gol e poi vi spiego perché. And the Oscar goes to Diamanti, che può puntare l'uomo. Diamanti! Alessandro Diamanti, settimo gol in campionato, una rete straordinaria. Pasquato prova con il destro! Pasquato, un gol incredibile da 30 metri, ha trovato l'incrocio dei pali Pasquato. Bologna 3, Cagliari 0. Io ti dico la verità, chi mi conosce sa che è la verità. Io penso a correre parecchio, perché c'è ancora parecchio da correre e fare tutto per questo Bologna. Poi in futuro vedremo, fa piacere interessamente le grandi squadre, qua sto bene. Non ho adesso pensieri assoluti per giugno. Tu sei bravo, no, ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. E io, insieme a Franco Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia, saluto e ringrazio l'allenatore del Bologna, Stefano Pioli. Buongiorno, mister. Buongiorno, buongiorno. Molti si aspettavano il collegamento Diamanti, però secondo me. No, tanto va all'Inter. No, Diamanti gioca domenica contro l'Inter. Sì. Gioca domenica contro l'Inter. Dovrebbe giocare. Ho già ricevuto un messaggio, adesso contro l'Inter e la Juve ci divertiamo, mi scrive Gianni. Io so bene come va il calcio. Noi fino a 10 giorni fa, dopo la sconfitta col Catania, tutti dicevano che le tre basse in classifica avevano messo sotto dentro il mirino il Bologna. Adesso è chiaro che veniamo da una settimana importante, sia per risultati chiaramente, che per noi è un passo importantissimo, sia credo assolutamente ieri anche per la qualità del gioco e per i bellissimi gol segnati. È anche vero che se dovevano arrivare impegni così difficili e allo stesso tempo così prestigiosi, credo che questo sia anche il momento giusto per affrontare questi avversari. Beh, anche perché adesso si è a metà classifica, è lì da leggere. Sì, è vero, ma però come abbiamo fatto noi in una settimana a scalare diverse posizioni finalmente a vedere una classifica buona, è possibile ancora che anche altre squadre che stanno su di noi possano trovare un filotto di vittoria. Si sa che con i tre punti si corre velocemente, quindi assolutamente soddisfazione per quello che abbiamo fatto questa settimana, perché non era facile prevedere due prestazioni del genere, due risultati così importanti, però ancora molta molta concentrazione. Sì, però io dico che tanto tutti quelli dietro, Diamanti e Girardino, non ce li hanno e voi sì. Assolutamente sì, questo sappiamo che è sempre stato per noi un nostro valore aggiunto. Purtroppo noi abbiamo pagato un inizio di campionato molto difficile, molto secondo me anche sfortunato, dove abbiamo raccolto meno di quello che si meritava, quindi è chiaro che è una squadra che all'inizio è cresciuta attraverso le sconfitte, e non è così facile crescere, continuare a crescere con delle sconfitte, anche se io da allenatore vedevo che il lavoro c'era e vedevo soprattutto che i valori c'erano, quindi sono sempre rimasto molto, molto positivo. Scommetto però che oggi nel leggere da qualche parte un possibile scambio Diamanti Girardino lei fa gli scongiuri, e non dico come. Non ho capito, scusi. Cassano Girardino, Cassano Diamanti, scusi. No, io mi tengo i miei, che oltre a essere, grandi giocatori sono... Me li terrei anch'io. Posso dire? Sono grandi professionisti, quindi sono molto contento di allenarli. loro si sono messi con grande disponibilità, con grande umiltà, al rispetto del proprio compagno, quindi dobbiamo continuare a insistere, perché mancano ancora 11 partite e io credo che noi possiamo salvarci in anticipo e poi magari provare anche a toglierci qualche soddisfazione, perché in 7 mesi ne abbiamo raccolte poco, però i conti si fanno alla fine. Bravissimo. Intanto arriva domenica, c'è l'Inter, un Inter che ieri 0-2 a Catania, poi cambia pelle, si conferma fuori dal campo la squadra più divertente, una delle squadre più divertenti del pianeta, in campo una squadra impossibile da leggere. Ma l'Inter ha comunque grandi giocatori e sta facendo comunque un ottimo campionato. Noi l'abbiamo già incontrato 2 volte, purtroppo siamo usciti entrambe le volte sconfitte, sia in campionato dell'andata a Bologna, sia in Coppa Italia, pur non demeritando, cioè credo siamo stati in partita dal punto di vista del gioco, dal punto di vista dell'occasione, però poi dopo tutte e 2 volte siamo tornati a casa senza punti. Chiaro che l'avversario è importante, chiaro che avranno un impegno importantissimo giovedì sera in Europa League contro il Tottenham, ma altrettanto è vero che noi stiamo attraversando un buon momento ed è chiaro che ci vogliamo provare, questo senz'altro. Invito sempre tutti i nostri convocati 800 24 00 24. Stefano Piola, allenatore del Bologna. C'è chi scrive: Stefanone, ti vogliamo bene, oppure chi ricorda la figurina di Pioli insieme a Platini, Mimmo da Roma. Però ah sì, sono dei bei ricordi sicuramente. Io ho avuto la fortuna di crescere, io un ragazzo molto giovane, di crescere in un ambiente soprattutto vicino a dei campioni incredibili, non solamente, ci tengo a sottolineare, perché non solamente dal punto di vista tecnico, ma degli esempi proprio. Senta Stefano, ma com'è Platini come presidente dell'UEFA? Ma io credo che stia confermando quello che faceva intravedere da giocatore, una persona molto acuta, molto intelligente e credo anche coerente con quello che pensa e cerca di metterlo in pratica. E anche furbo, tutto sommato. Sì, assolutamente. Un'ultima cosa, ho l'impressione che il bello del campionato stia dietro la Juventus, perché io continuo a pensare che insomma abbia blindato lo scudetto a Napoli, che non ci fossero grandi dubbi neanche prima. Vedo invece interessante la rimonta del Milan sul Napoli. Sì, io credo che il Milan, credo che sia sotto gli occhi di tutti, stia facendo un girone di ritorno o comunque stia avendo una ripresa eccezionale, giocando bene con intensità, e quindi credo che vadano fatti i complimenti ad Allegri per il lavoro fatto, perché non è facile cercare di rimettere in sesto un'annata che sembrava veramente nata sotto tutti i segnali negativi, e lì è bello, io credo che lì il campionato sia molto vincente, molto bello, perché anch'io non sono convinto che... È chiaro che la Juventus ha grandissime possibilità di vincere lo scudetto, lo può perdere solo lei in questo momento, anche se 11 partite e 33 punti di disposizione sono tanti, però la lotta per il secondo e il terzo posto secondo me sarà molto vincente, anche perché le squadre forti sono tante e i valori sono molto simili e la lotta per la salvezza sarà ancora impegnativa, quindi sono d'accordo e credo che sarà un bel finale campionato. Senta, posso venire alla festa con la Juve in casa tra 2 settimane? Sì, come no. No, però quella partita sarà indubbiamente, io mi auguro anche per voi, per il Bologna, per lei, per tutto l'ambiente, sarà una festa, anche perché voi la Juventus negli ultimi anni l'avete sempre messa in grandissima difficoltà. A noi, devo dire la verità, la Juventus è la squadra più forte del campionato ed è quella che quando ci giochi contro ti rendi conto della forza, della qualità dei singoli, dell'organizzazione di gioco che Conte gli ha data e dell'intensità che riesco a mettere sul campo. A noi sinceramente la sconfitta all'andata al 97esimo, 95esimo, quello che era, mancavano 30 secondi, ci è rimasta un po' lì e fa parte di quelle situazioni che all'andata ci hanno penalizzato parecchio. E quindi è chiaro, ripeto, adesso stiamo vivendo un buon momento e vogliamo fare di tutto per provare a continuare, per provare a toglierci la soddisfazione, tra l'altro, e provare anche a dare una soddisfazione a una tifoseria che è eccezionale, perché noi abbiamo fatto un giorno d'andata anche 5-6 partite senza fare neanche meno un punto. E i tifosi ci hanno sempre sostenuto con grande passione, con grande entusiasmo, mettendoci proprio nelle condizioni ideali per comunque continuare a lavorare con grande serenità. Quindi sarebbe veramente un'occasione importante, difficile, ma un'occasione importante che proveremo a sfruttare per regalarci a noi stessi e anche ai nostri splendidi tifosi insomma una serata importante. Stefano Piola, un abbraccio, grazie. Grazie a voi. Alla prossima. Tutti convocati. Tutti convocati, abbiamo sentito Stefano Pioli, allenatore del Bologna, a cui, anche se non ha detto, certamente vengono i brividi nel sentir parlare e leggere di uno scambio tra Diamanti e Cassano. Cassano che è stato definito da questa mattina da Moratti un artista, e gli artisti sono un po' così. Sono un po' così anch'io, adesso vado di là e tiro un pugno in faccia a Roberto Scaltritti in regia, tanto poi mi perdonano e decide la società sulla multa, decide la società, ha detto Moratti, chissà chi è la società. 800 24 00 24, io vi aspetto, anche perché devo farvi sentire, oggi abbiamo un sacco di cose, da Totti che ha timbrato il gol numero 225 della sua carriera, però sono meno dei candidati al Nobel per la pace, 259. Ha detto che vuole giocare fino a 42 anni, fino a raggiungere Nordal. Auguri a lui, alla Roma e allo Sceicco. Poi sentiremo anche Moratti e sono curioso di vedere l'Inter in settimana in Europa League a Londra con il Tottenham, appuntamento che mi affascina molto di più rispetto a quello della Juventus con il Chelsea, che credo sarà una formalità. Le partite interessanti invece sono domani e per nessuna ragione al mondo voglio perdere Manchester United Real Madrid. Pino da Brescia, buongiorno. 800 24 00 24, vi svegliate o no? Buongiorno Pino. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Ma dov'è, allo stadio? No. Sento un rumore di fondo pazzesco. Sul raccordo anulare di Roma, eh. Ah, però. Niente, dica. Volevo farvi gli auguri. Pino, però mi abbassi la radio perché sennò io non sento niente e gli altri ascoltatori nemmeno. Grazie. Carlo, l'ho spento. Dica. Niente, volevo far tanti auguri veramente a un grande uomo che si chiama Francesco Totti, da un interista incallito, Sì. Ma io mi unisco. Veramente è una roba che veramente tanti, ma tanti dovrebbero prendere da esempio, Ma tanti, Tanti, a cominciare da chi? No, vabbè, facciamo dei nomi, tanto qua si può. Abbiamo delle remore. No, Cagliari, è CA Cassano Antonio. Ah, Cassano Antonio. Ecco. Beh, lui potrebbe prendere lezioni non solo da Totti, È un caso patologico, Ha detto Capello che è un grande giocatore, ma non sa cosa siano le regole. La luna di miele è finita, però lei è interista, mi ha detto? Fino al midollo. Ebbene, io fossi un interista sarei più arrabbiato, più preoccupato per il fatto che queste cose continuano ad uscire dallo spogliatoio dell'Inter, per il fatto che quei muri siano così sottili e abbiano così tante orecchie da far meritare una causa chi li ha costruiti, insomma. In tempo reale esce qualunque cosa dai tempi di Recoba o anche prima. Ci sono dentro le cimici. Ci sono le cimici. Sì. Ma sì, perché ci sono solo lì e non ci sono negli altri spogliatoi dove succedono le stesse cose? Perché gli altri hanno più potere. No, questo non è vero. Questo non è vero perché è una scusa di comodo, caro Pino. Non è vero che gli altri hanno più potere, è semplicemente vero che le gole profonde ci sono lì, o le cimici ci sono lì e non ci sono da altre parti, ma non è una questione di potere, secondo me, perché queste storie le sentiamo da tempi immemori. È vero che una volta hanno visto da dietro un muro e arrampicati sugli alberi Ibrahimovic fare a botte con Onyu o Oneyu o come diavolo si chiamava, però mi risulta che queste cose non escano da nessun altro spogliatoio, quando Lippi e Deschamps ebbero i loro problemi, quando chissà Ibrahimovic cosa ha combinato lo spogliatoio del Milan, lo leggeremo quando apriranno gli archivi del Milan o della Juventus, come hanno fatto per la CIA. Antonio da Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere convocato. Sempre convocati, 800 24 00 24, perché sennò mi annoio. Dica. Niente, due cose. Vorrei che lei, di sua spontanea volontà, esprimesse un giudizio su Allegri, allenatore del Milan. Di mia spontanea volontà? Perché sì. Me la sono costretto? Cioè... No. Due parole sincere, perché io penso che questo ragazzo ne sta facendo un ottimo lavoro, però purtroppo 2 o 3 mesi fa nessuno avrebbe speso un euro su di lui. Beh, 2 o 3 mesi fa, lì, ricordo che il Milan dopo, mi sembra, 8 partite era terz'ultimo in classifica. Esatto. Ed era contestato non tanto dai tifosi o non solo dai tifosi, non tanto dall'opinione pubblica o non solo dall'opinione pubblica, quanto dalla sua stessa società. Adesso, esatto. E adesso lui è un allenatore molto bravo e molto furbo. È uno che non si fa mettere nel sacco da nessuno, è uno che porta avanti le sue idee e poi si giudichi quello che succede. È un uomo e un allenatore che fin da quando è arrivato al Milan, lei si ricorderà con Berlusconi, che gli rubò praticamente la conferenza stampa di presentazione e cominciò a dirgli di tagliarsi i capelli, e poi ci fu la presentazione il giorno dopo. È un allenatore che comunque con grande furbizia ha sempre portato avanti le sue idee. Io credo che il Milan oggi sia, e non da oggi, la squadra più in forma del campionato. Credo che arriverà secondo in classifica, e questa è una mia opinione personale, mi dispiace per i tifosi del Napoli, però più benzina anche emotiva, soprattutto se riuscirà a superare l'ostacolo del Barcellona. Credo che Balotelli abbia dato presente o assente, come era sabato contro la Lazio, quando Pazzini ha segnato la doppietta e 12 gol in campionato per uno che gioca part time, sono un sacco di roba. Credo che l'arrivo di Balotelli abbia dato corrente elettrica, abbia dato benzina a tutto l'ambiente. Credo che oggi sia molto difficile fermare il Milan, quantomeno in campionato. A Barcellona bastano 5 minuti sbagliati e poi va a finire che ha ragione Iniesta, che metterebbe la mano sul fuoco, e magari Galliani, che dice con una mano in meno me lo prendo a costo inferiore, come ha fatto la settimana scorsa. Però io credo che il Milan abbia già il Napoli nel mirino, al di là di quanto ha detto stamattina Galliani, che qui rideva ogni poro del volto, per non essere scurrili. 800 24 00 24, però adesso vi faccio ascoltare la top 3 del nostro weekend, a cominciare da chi vuole superare a tutti i costi Piola, e cioè Francesco Totti, numero 225 gol. In 5 anni 49 li fai. Poi smetti a 42 smetti. 5 anni ancora. Appena lo supero smetto, prendiamo nota. Adesso dai colleghi bravissimi di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, che nessuno se la prenda, il duo Dotto Cucchi. A Sampdoria che prova a uscire dall'area ma non riesce. Attenzione, il pareggio di Kofi. Kofi S, vi pare, perché al 38esimo minuto il giocatore ghanese ha messo in rete alle spalle di Viviano un bel cross dalla destra proveniente da Guana. Almeno per questi iniziali minuti di gioco il Catania ha una marcia in più rispetto all'Inter. Cartellino giallo della partita ancora. Il raddoppio dell'Inter al 19esimo minuto di gioco ad opera di Marchese. Da Kofi, se vi pare, al raddoppio dell'Inter con Marchese. Però adesso sul primo gradino del podio, ed è dichiarazione di oggi, presidente dell'Inter Massimo Moratti. Insomma, sarà stata non ero presente, non vi so dire cosa è successo, ma vedo che tendono tutti a normalizzare, insomma. Lui, sappiamo, è un campione, gli artisti sono un po' speciali, bisogna capirlo, insomma. Dunque, bisogna capirli, perché gli artisti sono così. Io artisti così non li vorrei nemmeno dipinti. 800 24 00 24, da lei non voglio essere convocato, la paragona a Bergodi, licenziato dal Pescara, odioso Paolo D'Ancona, un bacio. Lorenzo Napoli, buongiorno. Salve, io sono un milanista sfegatato. Quanti anni, Lorenzo, quanti anni 18. Hai? 18. Dimmi. E ti volevo chiedere, dimmi se tutto. Il Milan riuscirebbe a vincere contro il Barcellona, riuscirebbe anche a lottare proprio le ultime 4 giornate per il campionato? secondo me quei punti di distacco tra il Milan e la Juventus sono un po' troppi, caro Lorenzo, quindi anche se riuscisse a superare il Barcellona, credo che il Milan riuscirebbe a superare anche il Napoli, perché il Napoli ormai è nel mirino, perché il Napoli, insomma, mi sembra che abbia un po' finito la sua benzina, anche se starà lì tutta la stagione. Il mio pronostico, c'è chi prende nota come Ulisse, il mio pronostico è Milan secondo, Napoli terzo alla fine di questa stagione. Non so il vostro, ma se volete ditemelo, 800240024, numero verde, borsa. Se voglio fare male a qualcuno lo faccio, non è un problema. Tutti convocati. Dovrebbe andare dallo psicanalista per capire come mai l'Inter ha giocato così male nel primo tempo e così bene nel secondo tempo. La cosa è capitata oggi, ma è capitata anche contro il Milan e non a Firenze, perché fu brutto anche il secondo. Sì, non lo so, perché l'importante è che alla fine la squadra ha giocato bene e abbiamo vinto, che era proprio importante per noi. Dallo psicanalista, grande Max Nebuloni. Ciao Max. Ciao, buongiorno. Però non ti ha risposto, Come? Non ti ha risposto, Palacio, no, dallo psicanalista. La presa larga. La presa larghissima, è andato fuori strada. Ma dallo psicanalista ce la mandiamo volentieri l'Inter, anche dopo aver sentito che Cassano è un artista e dunque agli artisti si perdona tutto. Esatto, insomma non so fino a quanto sono disposti a perdonargli, però come... aveva così confidato tempo fa un suo ex allenatore ai tempi della Sampdoria, insomma Cassano è una bomba a orologeria, no? Che può esplodere da un momento all'altro e deflagrare nello spogliatoio, quindi quando lo compri nel pacchetto sono inclusi anche eventuali situazioni di questo genere, quindi insomma credo che anche all'Inter l'avessero messo in preventivo. Sì, l'ha messo in preventivo anche tutti gli interisti, Max. Il problema è, però è sempre quello, che ci sono i muri di Appiano Gentile che hanno le orecchie, sai bene, no? Le orecchie che camminano. Che camminano, esatto. No, ma se io fossi un presidente, ti dico la verità, non me la piglierei tanto con Cassano, perché sono cose che succedono, credo, in ogni spogliatoio, solo che da quello dell'Inter escono, dalle altre parti magari anche no. Sì, un po' meno, insomma. Mi ricordo che Facchetti diceva, quando alla Juve c'è una nuvola evapora, quando c'è all'Inter ad Appiano Gentile diventa un temporale. Insomma, è un paragone molto calzante, però insomma è successo spesso anche al Milan che ci fossero delle zuffe con Cassano protagonista. Hai detto bene tu, non è mai uscito o quasi mai uscito all'Inter, insomma qualcuno ha pensato bene di farlo uscire. Di certo ha ragione Stramaccioni, sono cose che non fanno bene allo spirito di squadra, però sarà secondo me bravo anche in questo Stramaccioni, soprattutto lui a soffocare insomma il clamore di questa vicenda e a incanalarla nei binari giusti. Ieri con un po' di fortuna l'Inter è riuscita, pur senza Cassano, a ribaltare un risultato che sembrava irraggiungibile a fine primo tempo. Sì, ma anche Stramaccioni è stato bravo dopo aver sbagliato tutto nel primo tempo, no? Come scrive anche oggi Mario Sconcerti, avrei letto sul Corriere della Sera, sì. Fa e disfa manco fosse Penelope, cioè ieri ha sbagliato l'approccio alla partita, poi Stankovic, che è un vecchio bucaniere serbo, non a caso è stato il primo a mettersi in mezzo, si dice, non appena Cassano e Stramaccioni sono messi le mani addosso, perché lui ha fatto così ed è un leader vero. In campo Palacio, e l'Inter è cambiata completamente. È cambiata veramente completamente. Del resto, insomma, i campioni si vedono nei momenti difficili come ieri. Anche l'anno scorso, se vi ricordate, c'era ancora Ranieri a fine primo tempo nello spogliatoio dell'Inter. Successe qualcosa di clamoroso, insomma, ci fu questa reazione importante da parte di tutta la squadra. Fu Giulio Cesar a suonare la carica, e anche questa volta, grazie a Stankovic, ma non solo, soprattutto a Palacio, poi in termini pratici, l'Inter è riuscita a ribaltare il risultato. Sono giocatori purtroppo che non si trovano al supermercato. L'Inter ha cercato dopo il triplete, insomma, di sostituire questi grandissimi fuoriclasse, però non sono eterni e quindi anche loro debbono insomma, arrendersi alla carta d'identità, però ha dimostrato anche lo stesso Cambiasso, per esempio, che se viene gestito nel modo giusto e se non magari si sforza anche lui di capire che tre partite alla settimana sono tante anche per uno con la sua esperienza, è un giocatore che può tornare utile anche negli ultimi 20 minuti, nell'ultima mezz'ora di una partita complicata come quella di ieri, ed essere decisivo poi o segnando o facendo segnare i compagni. Sì. Max, ti chiedo un'ultima cosa che è un pronostico che io mi sono esposto, non so se vuoi farlo anche tu. Prima Juventus, secondo Milan, terzo Napoli. Sì, concordo. Concordi? Concordo, anche secondo me il Milan avrei detto Milan se ci fossero stati meno punti di distacco, però insomma mancano troppe poche giornate e comunque il Milan ha perso troppo nelle prime giornate, certo, del certo, torneo. La Juve secondo me ha due marce in più rispetto a tutti in questo momento, il Napoli lo vedo in flessione e secondo me il Milan nel giro di poco riuscirà a superarlo. Bene, così condivido con te gli insulti che mi arrivano, Max? Come? Condivido con te gli insulti che mi arrivano. Beh, non sei il solo, volentieri. Grazie, prendo Max. La mia parte. Grazie. Ciao, a voi, grazie. Un abbraccio. Grazie a Massimiliano Nebuloni da Sky. Sono lo sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. Allora, mi cascassero le braccia se io parlo male di Totti, come scrive qualche ascoltatore prevenuto. 800 24 0024, numero verde, che mi cascassero le braccia tutte e due se prendo in giro Totti o se faccio dell'ironia. Se la prendete così è perché avete la coda di paglia. Io leggo un tweet dalla Spagna. Saludos da Spagna, auguri al capitano della Roma, un calciatore bravissimo, no Totti no parti, un capitano, solo un capitano, mi scrivono dalla Spagna. C'è un altro invece che è Simone che scrive: Giovanotto, riferendosi all'ascoltatore di qui sopra, 800 24 0024, vai a scuola invece di ascoltare neomilanista Genta, avviso l'ascoltatore, oggi dottor Genta milanista, domani non è dato sapere. Ma per favore, ragazzi. Allora, a proposito dell'angolo dello sceicco che non può mai mancare perché è la storia più divertente dell'inverno, oggi campeggia la dichiarazione di Franco Baldini che dice, virgolette, qualsiasi cosa ci sia non riguarda direttamente la Roma, ma l'ingresso di un nuovo investitore nel gruppo degli americani che potrebbe consolidare e dare ossigeno alla società stessa. Le banche, specie di questi tempi, fanno come San Tommaso. Questo loro atteggiamento non mi ha sorpreso, ma me ne curo molto poco. Se le banche fanno come San Tommaso, avranno, secondo me, le loro ragioni. 800 24 0024, caro Walter da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Dica. Come sta? Tutto bene? Niente, benino. Volevo fare un commento sulla gestione Cassano. Non ho parole perché è un giocatore che guadagna... O se ce le ha è meglio che non le dica? Bravo. 800 24 0024, ma potete anche dirle, 2 milioni e 7 netti all'anno. Ecco. Vorrei essere un artista anch'io. Bravissimo, qui di artisti non ce n'è, abbiamo purtroppo un presidente che ci ha venduto Coutinho, ci ha venduto il ragazzo lì all'Atalanta per prendere dei giocatori. Beh, Coutinho è... Beh, non l'ha mai fatto giocare però. No, doveva essere il nuovo che avanza dell'Inter, e perdonate la citazione per cui pagherò il copyright. No. Però sa, anche lì piuttosto Walter, io non capisco benissimo, non capisco benissimo lo scambio tra Livai e Rocchi, questo mi è abbastanza oscuro da comprendere nelle logiche di mercato. Molto oscuro, ma sembra che tutta la campagna acquisti e vendite sia fatta dal presidente, per cui prendiamo atto, insomma. Grandi capacità che noi abbiamo avuto il risultato maggiore quando Mourinho ha gestito anche la società. Poi questo come la penso io, poi da grande. No, ma come la pensa lei nella cronaca, no? Cioè, mi pare che sia cronaca più che commento. Quindi così. E poi Cassano, io non solo non gli darei 3 milioni e mezzo, ma lo caccerei proprio a pascolare le pecore, perché è un personaggio così, non merita assolutamente niente. No, ma sa, Cassano è così, no? Cioè, ha preso a male parole il povero Garrone, un anziano galantuomo, poi è andato al Milan, ha fatto i suoi capricci, e all'Inter era solo questione di tempo. Francesco, provincia di Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Eccoci. Ma io vorrei invece parlare del duello rusticano tra Cavani e Chiellini. 1-1. 1-1, esatto. Però ciò che emerge, e non mi è ancora del tutto chiaro, è quanto incida il giudice di linea rispetto all'arbitro. Lo definisco tale, giudice di linea, giudice di porta, giudice d'area di rigore, non saprei come definirlo. La sostanza è un gran casino, è un gran casino, perché questo, io sono sempre convinto che questo esperimento sia stato messo in campo ancora prima di essere rodato. Credo che sia una fesseria enorme quella che è stata fatta di correre far dirigere le partite in questo modo, quando nemmeno era stato provato questo esperimento, perché io credo che gli arbitri, come i giocatori, vadano allenati, vadano abituati a cose del genere, mentre qui subito sull'onda dell'emozione popolare e dammi la moviola ti do il giudice di fondo campo, così non rompi più. Però insomma, è un esperimento che non funziona. Io credo che alla fine il duello tra Chiellini e Cavani sia stato pari e patta, perché quella tirata dei capelli non la giudico meno antisportiva della gomitata che poi Cavani ha rifilato a Chiellini. Quindi andavano espulsi entrambi, con buona pace del giudice di porta e di Orsato, che comunque secondo me ha diretto una partita non semplice, perché è stata cattivella, una partita piena di tensione prima e dopo e durante, come sappiamo bene, che credo sia tutto sommato e comunque il miglior arbitro del nostro campionato. Dunque Chiellini Cavani 1-1, Napoli-Juventus 1-1 e il campionato secondo me è finito qui. Traffico. Niente, volevo fare un commento sulla gestione Cassano, non ho parole. Tutti convocati. Vai, con Milito non riusciva a giocare, quindi è andato all'Atalanta, poi Milito si è infortunato e le cose sono cambiate, scrive un ascoltatore. Sì, però non mi pare che nemmeno Rocchi giochi più di tanto, sia funzionale alla causa più di tanto, tanto valeva tenere Livaia e magari risparmiare 4 soldi. O no, ascoltatore, che dici? 80024 0024 349 238 6666 per i vostri sempre molto polemici messaggi. Rocco da Foggia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta Carlo. Dica, dica Rocco. Sono un tifoso di Totti. Anch'io. Lo so. Ah, allora. Senta, io non sono un tifoso, ma sono cotto proprio completamente, perché lui c'ha le stesse cose che tenevo io quando tenevo 18 anni, io ho 70 anni. Allora io quando giocavo io, era una cosa eccezione, io zappavo la terra, mi venivano a prendere dopo zappavo la terra e andavo a giocare. E giocava come Totti? Sì, no, ma sta scherzando. Io facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Grande Rocco, peccato. Io ti auguro tante belle cose, però anch'io. Sai dove sento la radio? No. Dentro la macchina, che non voglio essere disturbato da nessuno. Bravo, ti sento tutti i giorni. Dentro la macchina che nessuno pacchi le scatole. Abbandono tutto, televisione, tutte cose, però tutti i giorni sono alla radio per sentire a te. E continua così. Io ti ringrazio, una delle più belle telefonate che mi possano capitare questa. Io c'erano due fratelli, quando giocava, io ho giocato proprio da bambino, però andava sempre a zappare la terra, perché di quei tempi sono del 40, di quei tempi. Molto più faticoso, Rocco, zappare. Io ci manderei qualcuno di quelli che giocano a pallone invece a zappare la terra almeno per qualche settimana, poi vediamo se sono stanchi dopo aver giocato due partite alla settimana, poi vediamo. Rocco, un abbraccio, grazie, arrivederci. Allora, prima di una delle perle del weekend che non riguarda il calcio, però per la quale sto ancora ridendo, Giuseppe da Roma. Buongiorno. E non mi dica che sono contro Totti, perché sennò appendo il telefono. No, per carità, io voglio bene a Totti, ma anch'io. Non mi bisognerei mai di dire una cosa del genere. Anch'io voglio bene a Totti, non so perché mi dicano che faccio dell'ironia. Giuseppe, mi abbassi la radio, poi abbassi la radio, poi dice quello che vuole. Non so perché mi dicono che faccio dell'ironia su Totti. Ma non lo so, io l'ascolto sempre, non lo sento mai. Appunto, anche perché non è vero. Senta, no, a parte che concordo sul fatto di mandare parecchia gente del calcio a zappare la terra, ma io volevo parlare di un'altra cosa, se lei è d'accordo. Sì, io sono d'accordo, però mi abbassi la radio, perché sennò sento il ritorno in cuffia e dà fastidio. Sono solo in casa, c'è il silenzio più assoluto. Ah, va bene. Dunque, le volevo dire, io ho saputo dalla sua trasmissione del fatto della Formula 1 su Sky. Lo so che molti lo sapevano da prima, io l'ho scoperto pochi giorni fa dalla sua trasmissione. E approfitto dello spazio che mi date per protestare e chiedermi se si rendono conto di quello che stanno facendo. Non si può più vedere il pallone, hanno spalmato il campionato, ci tolgono la Formula 1. Io posso solo augurarmi che finisca come se successe con la MotoGP. Mi sembra che alcuni anni fa la misero sulla Pay TV e l'anno dopo sono dovuti tornare a più miti consigli. Cosa ne pensa? Dunque, ne penso che è questione di mercati televisivi, che nel 2013 magari ci dobbiamo anche abituare al fatto che lo sport in TV, che è il grande sport in TV, possa non essere più gratuito per tutti. So che molti non sono d'accordo, però in tutto il mondo succede questo. La MotoGP tra un paio d'anni passerà su Sky e anche questo lo sappiamo. È evidente che in un momento come questo non tutti hanno la possibilità o sono disposti, comprensibilmente e compreso sottoscritto, magari a pagare il tanto che costa Sky per vedere l'offerta sportiva. Tanto vale a questo punto provare ad organizzarsi e magari a formare delle comitive per vedere i Gran Premi, come è successo per il pallone. Però queste sono le leggi del mercato televisivo dello sport, quindi non ci trovo alla fine niente di strano o di perverso in tutto questo. Adesso, dunque, allora, ieri la corsa era la Roma Massima, corsa di inizio stagione del ciclismo. Pippo Bozzato, regola involata al gruppo, peccato che il traguardo l'avesse già tagliato il francese Cadré e lui non lo sapeva. Oggi sui fori imperiali per Biel Kadri, Roma Massima ad un francese. Biel Kadri ha fatto davvero una grandissima impresa. Lo sprint che vale però soltanto per un piazzamento, abbiamo visto Filippo Bozzato, vediamo un po' adesso lo sprint per il secondo posto con l'arrivo di Filippo Bozzato che alza le braccia. Non si è accorto che davanti, non si è accorto che davanti c'era Biel Kadri. È una brutta immagine, bruttissima, però vabbè, sono cose che succedono purtroppo, quando si è lì in quegli attimi che si ha tutta... Non è che c'è tanto tempo di ragionare o parlare con la gente, e specialmente su un arrivo così, delle immagini veramente uniche, mi sarebbe piaciuto alzare le mani veramente per il primo posto e non per una finta vittoria, per un secondo posto. Io applaudo all'ironia di Pippo Pozzato e del massaggiatore che a un certo punto gli ha fatto col dito: no, guarda che sei secondo. E oggi Pozzato ha scritto su Twitter, me lo ripeti per favore? Allora, ha scritto su Twitter: insultatemi pure, ho fatto una figura di merda. Questo ha scritto Pippo Pozzato, che però si è comportato in maniera... Allora, ha fatto la figuraccia ed è evidente, però in maniera molto simpatica. Adesso, sempre a proposito di altri sport, rullo a partire da Scariolo, allenatore di Milano Basket, che ha battuto Siena. La Mantia, magnifico triplo nel bronzo per la nostra atletica. E Werner El, terzo nel Super G. Partita... grande tensione, credo che i dati evidenti sono stati il primo quarto, soprattutto primi minuti difensivi era una cosa sulla quale avevamo sentito di più durante la settimana. L'inizio, l'approccio del resto nostro è una squadra con degli equilibri psicologici molto complessi, molto particolari. In assoluto una partita in cui abbiamo difeso. Abbiamo commesso degli errori di distrazione nel quarto quarto che mi hanno permesso di mantenersi fino alla fine con opzioni di vincere. Ho venuta qui a Göteborg con alcuni problemini fisici, però c'ero e volevo difendere il mio titolo di campionessa europea. Sicuramente se durante l'inverno non avessi avuto questi piccoli problemi fisici avrei potuto fare anche qualche centimetro in più, però va bene così, l'importante era esserci e io c'ero e l'ho fatto vedere. Molto contento, molto soddisfatto e soprattutto per fine stagione che vuol dire che secondo me anche per il prossimo anno ci siamo e intanto contentissimo di questo rientro dopo un anno e mezzo di fatica, di avere problemi col materiale e niente. E sono molto orgoglioso di partecipare proprio a questa squadra fortissima che abbiamo. Sergio Scariolo, Simona Lamantia e Werner El, che ultimi due al microfono del nostro Dario Ricci. Federico da Brescia al volo, buongiorno. Federico. Buongiorno Genta, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. A una marcia in più. Grazie, allora, dica. Discorso dica. Cassano. Sì. Volevo capire una cosa. Adesso tutti che criticano Cassano per questi comportamenti così, ma tanto al prossimo cambio di maglia, lui fa le solite dichiarazioni ancora tutti. Anche i giornalisti, non nel suo caso, a incensarlo, a farlo simpatico, ma che bravo e tutto. Per giudicare certe persone ci vorrebbe un po' più di coerenza, forse. O non ci vorrebbe l'anello al naso, perché Cassano ormai lo conosciamo da un sacco di tempo, poi vediamo se cambia maglia. Grazie Federico, ragazzi vi aspetto domani alle 2, tutti convocati, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao. Ma a tutti. No, tutti convocati.